per 5, 25, 6 per 3, 33, 2 per 8, 48, 3 per 9, 29, 6 più 2, 42, 3 per 8, 48, 6 per 9, 29, 2 per 1, 3 per 2, quindi praticamente il 2 per 1 è acquistiamo due prodotti al prezzo se di ne paga uno solo, esatto. E si risparmia esattamente il 50% di fatto. Anche il 4 per 2 esiste. Esiste anche il 4x2, questo non l'ho mai visto. Anche il 4x2, il 3x2, l'8x4, il 2x1, qualche. Facciamo le tabelline. Chilometri bisogna fare per andare verso la libertà. Bisognerà far caso. Abbiamo anche una bella formica nel nostro studio. No, la zanzara l'ho ammazzata prima io. No, la formica lasciatela viva, per no, favore. No, no, per carità. Mazzone, sta dirigendosi verso Luciano Mazzone. Posso continuare la trasmissione oppure dobbiamo monitorare? La trasmissione sugli animali la facciamo domani. Domani, domani. Quindi, anzi, possiamo già lanciarla. Ottimo. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cosa devo fare per amare il mio prossimo? Chiese il discepolo al maestro. Gli rispose: smetti di odiare te stesso. Abbiamo scelto questa frase di Anthony De Mello, teorico del pensiero positivo, per introdurre il tema di oggi, che è la ricerca della felicità. Oggi insieme a tanti ospiti, ma soprattutto guidati dalle vostre esperienze, dalle vostre storie, vogliamo parlare di felicità. La definiamo in realtà con un unico termine, ma sappiamo bene che può assumere significati assai diversi. Per un innamorato forse è l'amore, per un malato la salute, per il disoccupato il lavoro, per un giocatore la vincita, per un povero la ricchezza. Ognuno cerca la sua felicità, che non riuscirebbe probabilmente a rendere felice qualcun altro. Insomma, la felicità sembra essere tante cose diverse, una, nessuna, centomila. Che significato dà alla parola felicità? Un domandone da mille punti. Si sono interrogate filosofi, poeti, scrittori, letterati, sociologi. E che felicità andate cercando? Avete una ricetta personale da condividere con noi? 800 24 00 24. Sì, e di felicità continueremo a parlare anche nella pagina di denari, anche se mi rendo conto che per qualcuno questa relazione possa apparire un po' bizzarra. Riprenderemo in mano uno dei modi di dire più gettonati in ambito economico: i soldi non fanno la felicità. Già lo cominciano a dire anche degli ascoltatori che ci stanno scrivendo. È davvero così o è un'ipocrisia? Sicuramente nel corso della nostra vita ci sono stati dei momenti in cui abbiamo condiviso, avete condiviso questa frase, e altri in cui avete pensato che al contrario un po' di sicurezza, se non brillantezza economica, proprio avrebbe fatto comodo. Voi intanto iniziate a pensarci, raccontatecelo all'800 24 00 24. Dalle 11.45 parleremo con un ospite che questa frase l'ha non tanto stravolta ma certamente un po' modificata e l'ha fatta sua. In un libro ha scritto: i soldi fanno la felicità. Nessuna domanda, proprio un'affermazione chiara. Ci faremo stimolare e provocare da questo, che è appunto il titolo di uno dei suoi libri, come sempre però raccogliendo per voi qualche consiglio pratico per vivere al meglio la relazione con il denaro. Da giovani come da vecchi, è giusto che noi ci dedichiamo a conoscere la felicità. Per sentirci sempre giovani quando saremo avanti con gli anni, in virtù del grato ricordo della felicità avuta in passato, e da giovani, irrobustiti in essa, per prepararci a non temere l'avvenire. Cerchiamo di conoscere allora le cose che fanno la felicità, perché quando essa c'è, tutto abbiamo. Altrimenti, tutto facciamo per averla. È l'incipit della lettera di Epicuro all'amico Meneceo. Allora seguiamo il consiglio, cerchiamo di conoscere le cose che fanno la felicità. Aiutateci naturalmente anche voi chiamando il nostro numero verde, perché quando c'è la felicità tutto abbiamo, altrimenti tutto facciamo per averla. D'altra parte, chi di noi non cerca o non si augura di essere felice? Chi di noi, nonostante gli insuccessi, le difficoltà, smette di provarci, di riprovarci ancora attraverso strade diverse, a volte ingarbugliate, contorte, strade che spesso ci portano lontano? Pare che siamo irresistibilmente orientati a cercarla dove non c'è, ma ci rimettiamo nuovamente in cammino anche oggi, e lo facciamo con tanti ospiti. Salutiamo il maestro Tetsugen Serra, maestro Zen, ideatore e organizzatore di Urba Zen, e con Ubi, l'Unione Buddista Italiana della Notte delle Lanterne, la Darsena di Milano, che ha visto ben 120.000 persone secondo la Questura di Milano. I giornali hanno detto un miracolo a Milano, tutto il traffico bloccato. Buongiorno maestro. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti in questa bellissima giornata calda di pace tranquilla. E due nuove voci di Radio 24 che la felicità l'hanno trovata, forse, ce lo diranno, l'hanno messa pure nel titolo del nuovo programma. Allora benvenuti a Rosita Celentano, che è qui in studio con noi. Ciao Rosita. Ciao, ciao a tutti. E benvenuta ad Angelo Vaira, che non forse che ci sta raggiungendo. Chissà sì. Se è felice di tutti gli intoppi, come l'ha preso, glielo diremo, perché sai, un conto è essere seduti e dire ah, prendo il positivo, eccetera. Poi voglio vederlo. Zen, lui è molto zen, lo sappiamo. Da domenica 5 luglio saranno conduttori di Chiedimi se sono felice, un nuovo programma di Radio 24. Rosita, fateci felice raccontandoci che cosa ci aspetta e che cosa state preparando per noi. Eccomi. Perché anch'io non sentivo prima. Dicevo, Angelo è molto zen, quindi anche nel traffico cittadino riesce a trovare il suo spazio. Allora, Chiedimi se sono felice, lo dice il sottotitolo, che è Il mondo dalla prospettiva del cane, visto dalla prospettiva del cane. Noi raccontiamo tutto quello che sono gli animali, e in modo particolare i cani, che sono gli animali che vivono più vicini all'uomo, perché ci insegnano veramente tanto, ci insegnano la pazienza, il voler bene in modo totalmente sincero, quindi sgombro da giudizi, da pregiudizi, e come sapersi rapportare con un cane, quindi quello che il cane ti dà, e come capire il linguaggio del cane. Parliamo dei segnali calmanti, parliamo dello stress, dell'alimentazione, di tutti gli aspetti legali di chi ha un cane, un cucciolo, se morde, se viene morso, anche di chi i cani non li ha e magari non li sopporta, quindi come sapersi rapportare alle persone che ce l'hanno, ad essere civili, certo. Quindi raccogli quando si va in giro con i cani, insomma tutto il mondo del cane, raccontiamo la vita attraverso gli occhi del cane. Senti, a proposito di animali, Rosita, loro ci regalano felicità, è ormai provato, sanno riconoscere se siamo felici, non è un unico pensiero, lo sottolineo perché i nostri ascoltatori sanno che io sono assolutamente a favore degli animali, li adoro e quindi sono sfacciatamente di parte, ma ci sono numerose ricerche che lo dimostrano, no? Gli animali sanno riconoscere anche i nostri stati d'animo, le nostre emozioni, e ne attivano altre. Loro assolutamente sanno anche quando siamo tristi, quando piangiamo, anche quando siamo malati, quindi se abbiamo un cane vivace e c'è un periodo che magari non stai molto bene, spesso senti le persone dicono caspita, sembra quasi che capisca che io non sto bene, non è che sembra quasi, lo capisce proprio. Poi proprio con te abbiamo anche parlato di tutto quell'aspetto di che gli animali riconoscono malattie importanti come quelle dei tumori, perché la cosa fondamentale è che a seconda dell'umore che abbiamo noi produciamo anche degli odori diversi, uno stato d'animo, quindi un'energia diversa, una frequenza diversa, e un animale sensibile come il cane percepisce tutto in assoluto. Anche un animale può renderci felice, ne parleremo naturalmente insieme ad Angelo e Rosita. 800 24 00 24, ma io Deborah vorrei tornare al maestro, sì. E tornerei all'incipit della lettera di Epicuro all'amico Meneceo che abbiamo ascoltato in apertura. L'invito della scuola epicurea, ma io penso delle scuole antiche in genere, è di imparare a vivere il proprio presente, a vivere ogni istante come se fosse l'ultimo. Ma credo che la grande lezione è vivere ogni istante come se fosse il primo, quindi recuperando un po' la gioia, la fiducia, l'attesa, lo stupore di quando eravamo bambini. Sembra un gioco da ragazzi, o meglio da bambini, in realtà chi ci ha provato sa che è molto difficile, ma nonostante tutto ci si riprova. Maestro, ci aiuti lei? Sì, assolutamente. La cosa importante è vivere il momento presente, non quello futuro. Quando si dice i soldi fanno la felicità o no, dipende solo da noi. Possono fare la felicità, ma possono fare l'infelicità. non dipende da quello che è fuori, dipende solo da quello che è dentro di noi. E quindi vivere il momento presente libero da tutti i nostri condizionamenti su che cosa sia o no la felicità come preconcetto. Questo è assolutamente importante, insomma. Intanto noi abbiamo naturalmente chiesto, maestro, l'aiuto dei nostri ascoltatori, li abbiamo invitati a raccontare la loro personale definizione di felicità. Usiamo questo termine per raccontare cose tra loro molto diverse, probabilmente la felicità che intendo io è diversa da quella di Rosito, di Debora. Certo, probabilmente. Però devo dire che ormai io e Debora ci vestiamo, ormai ci vestiamo praticamente uguali, una coppia, per cui felice. Sì, una coppia felice. Mattina colorate di zen, no? È vero, in attesa del arancio buddista. 349-238-6666 stanno arrivando messaggi, ma sì, insieme al nostro maestro Tetsugen Serra noi vorremmo andare proprio sul concreto, perché quando diciamo che la felicità è dentro di noi e non fuori di noi, maestro, diciamo una cosa che il buon senso ci porta a considerare e a capire che è vero. In realtà poi trovarci, guardarci dentro e provare a essere felici, beh, è tutta un'altra storia. Maestro. Sicuramente, sì, questo sicuramente, però se per esempio prendiamo la nostra giornata, no? Quante cose della nostra giornata riteniamo veramente che facciano parte della nostra felicità, del nostro benessere, e quante no? Basterebbe passare in rassegna la nostra giornata per vedere che tante cose che noi facciamo non ci interessano veramente, e quindi inevitabilmente sono un po' spunto di infelicità. Quindi guardare il qui e ora e analizzarlo è assolutamente importante. Per molti di noi per essere felici comunque è necessario stare bene, godere di buona salute, avere successo, fare esperienze positive, soddisfacenti, avere un buon conto in banca, Debora. Devo dire che il tema denaro è molto gettonato dai nostri ascoltatori, perché chiaramente molti dicono forse non fanno proprio la felicità completa, ma molta serenità sì, la danno. Ma poi non li vedo felici, i ricchi non sono le persone che io vedo più serene e felici, no, paradossalmente. No. Beh, secondo me non hanno mai reso triste nessuno, credo. Ma abbiamo recuperato anche Angelo Vaira, chissà com'è, dopo sta facendo un caldato in qualche parte. Chiedetemi se sono felice. Ecco, sei felice, Angelo? Beh, molto, molto, mi dispiace soltanto di non essere pervenuto all'intento. Però di solito Angelo Vaira è puntuale, puntualissimo. Anche in anticipo. Grazie, anche in anticipo. Nico, che lo dici, grazie. Sì. Senti Angelo, Rosita ha detto che comunque di fronte ai contrattempi tu sei molto zen, quasi un po' come il maestro Tetsugen Serra che è in linea con noi. È vero, è vero. Cioè, quindi tu che cosa hai detto? Mi ho sbagliato entrata, mi sono perso, eccetera. No, ma niente, lasci che i pensieri scorrano. Poi certo, se vuoi incaponirti fai sempre in tempo. No, devo andare così piuttosto che cos'ha, sarebbe stato meglio che. E sono pensieri che è naturale che emergano, magari uno può anche imparare, no, dalle cose che ci sono. Però li puoi far scorrere, così come fanno i gatti. Perché sai che poi io interrogo gli animali, no, su che cosa bisogna fare per essere zen. No, gli animali, ne anticipavamo un po' il tema con Rosita, ci aiutano, sono un po' dei nostri, possono maestri. Diventare maestri. Tu ne hai scritto numerosi blog e articoli sul tuo sito che io vado sempre a consultare e che ho segnalato anche al maestro Tetsugen Serra. In che modo? È un tema che affronterete naturalmente nel nuovo programma che parte proprio sabato alle 15. Sabato alle 15, domenica, ogni domenica poi alle 10. Esatto, ma quindi gli animali ci fanno bene per la loro presenza, quindi il solo fatto di averli lì o di accarezzarli è stato dimostrato scientificamente che ci fa liberare endorfine, ossitocina, riequilibra la pressione sanguigna, quindi ci fanno proprio bene a livello fisiologico, già soltanto il fatto di averli. Però sono anche degli esseri che possiamo interrogare, parlando, se impariamo a parlare la loro lingua, no? Perché non sono condizionati dalla pubblicità e dalle mode, per cui se io voglio osservare in un branco di cani, di lupi o in un gruppo di orsi che cosa li rende felice, scoprirò, essendo loro mammiferi sociali, che ci sono tante corrispondenze con l'essere umano così come è fatto, per cui ci sono i bisogni del corpo, che sono quelli di alimentarsi, respirare bene, muoversi, fare movimento, no? Sappiamo che fa uscire la gente dalla depressione, così come anche i bisogni sociali, empatizzare, avere compassione, il maestro su questo appunto ci può insegnare tanto. c'è bisogno di nutrire la mente, no? Con la scoperta, la curiosità, l'apprendimento, la ricerca, e poi c'è bisogno di nutrire lo spirito, perché anche gli animali da questo punto di vista possono insegnarci delle cose. C'è un maestro di meditazione che si chiama Eckhart Tolle che dice: ho vissuto con molti maestri zen ed erano tutti gatti. Quindi, tutti gatti, beato lui. I gatti sono maestri zen, sì. Maestro, lei è d'accordo? Sono d'accordo sia sui gatti che sui cani. C'è un koan, cioè una delle frasi meditative che viene assegnata all'inizio proprio del percorso, e dice: un koan è il cane ha la natura di Buddha o no? Naturalmente natura di Buddha vuol dire l'illuminazione, cioè è illuminato, e su questo sono stati scritti libri, perché vuol dire il cane fa parte della natura dell'universo e noi invece crediamo che sia qualcosa di diverso, e così insomma tante cose che riguardano gli animali. Insomma, maestro, tornando a noi e tornando allo Zen, gli insegnamenti Zen ci spiegano che ci sono due tipi di felicità. Una è una felicità che dipende dalle cose che possediamo, e l'altra invece è una felicità che proviene, possiamo dire, da un senso di appagamento del nostro essere, quindi che non è legata a possedimenti o condizioni esterne. Mm-hmm. Noi però poi parleremo anche di soldi e del legame che abbiamo con loro. Quindi due tipi di felicità, solo questi? Questi quindi sono due tipi, ma per semplificare naturalmente, parlando della felicità dei soldi, che a molti sicuramente ascoltatori è un tema vivo, allora uno può essere felice o infelice, e uno può avere tutti i soldi che vuole, ma se per essere felice deve continuamente soddisfare dei desideri con quei soldi, rischia alle volte di non essere più felice. E invece uno è felice perché i soldi gli danno una tranquillità e una sicurezza, e poi magari non spende neanche un euro, allora vuol dire che la felicità ce l'ha dentro, però è molto diverso questo. E una volta acquisita, anche se dovesse perdere tutti i soldi in borsa, rimarrebbe comunque felice, contrariato, dispiaciuto, ma è diverso. La felicità è una condizione che rimane quando c'è. Abbiamo i nostri ascoltatori, sì, che ci danno una mano ad affrontare questo tema, che è abbastanza complicato, perché dare una risposta, dare un'indicazione. Non ci sono, insomma, le ricette evidentemente della felicità. Belle, vi ricordiamo il nostro però, numero verde, che è un numero felice, perché superare la barriera rosa dà sempre grandi soddisfazioni. Il verde mette già di buon umore. Sì, esatto. 800 24 00 24. Deborah? Cominciamo con Daniela da Firenze, che si è candidata sin dall'inizio a darci la sua interpretazione, la sua ricetta di vita per la felicità. Daniela, benvenuta. Sì, buongiorno. Io volevo dire che la felicità non va cercata, perché è dentro di noi. Non va cercata nelle cose, neanche nelle persone. È dentro di noi, è uno stato d'animo. Se no si fa alla fine di quel re che dice: cercami una persona felice e portamela qui, e portami la sua camicia. Andò a cercare, non riuscì a trovare persone felici. Quando trovò la persona felice, disse: dammi la tua camicia. Dice: io non ho mai avuto una camicia. Per dire che non gliela poteva dare, quella si sa dentro, non si può dare agli altri. Si può creare dei momenti lieti agli altri, ma proprio la felicità, la gioia è dentro di noi. Sono d'accordo con come la tua... ha parlato prima. Grazie per questa, che è una un po', allora, maestro, è una storia un po' zen questa, di quelle che lei ogni tanto quando viene a trovarci ci racconta, per stimolare anche i nostri ascoltatori a dare la loro interpretazione, un significato, e quindi trovare anche un po' un consiglio, un orientamento. Sì, dopo vi dico una storia e sentiamo un po' cosa pensano gli ascoltatori. Però mi permetto, insomma, la felicità non è una risposta a dire che cosa sia, non è una risposta matematica. La felicità è sì, la felicità è no, la felicità è questa, la felicità è quella. Come diceva lei giustamente, ognuno ha la sua felicità. C'è chi è felice quando qualcuno lo viene a prendere ai tornelli dell'entrata, c'è chi è felice perché sta arrivando il maestro. Però dato che quando si muove il maestro veramente Milano va in tilt, non ci provochi. Io, vediamo che cosa succede qua all'Expo. Intanto vi diciamo che sta arrivando ai nostri studi. E lei quindi è stato felice che qualcuno l'abbia recuperata ai Torrelli? Felicissimo, felicissimo, una felicità reale, no? Perché uno incontra una persona, qua dentro sarà incontenibile di felicità qui nel nostro stand. Incontenibile. Ti voglio dire che le cose semplici, incontrare una persona che ti accompagna ai tornelli, un bicchiere d'acqua quando uno ha sete, sono felicità che noi non consideriamo, diciamo ma sì, va bene. Chiediamo per scontate a volte. Chiediamo per scontato. Ma se estendiamo tutto questo a tutta la nostra giornata, ai nostri incontri, tutto può diventare felice. Assolutamente. Io ho provato, dopo la morte del mio papà, io ero veramente come, insomma, non sono ancora guarita del tutto, però insomma ho attraversato, come tutte le persone che soffrono una grande perdita, un momento molto difficile. E allora leggendo qua e là ho scoperto, mi è venuto questo suggerimento di annotare in un foglietto le cose che mi avevano fatto piacere in quel giorno. E ho visto che alla fine della giornata c'erano delle cose molto piccole, che però l'elenco alla fine della giornata era grande. Allora ho pensato che fosse un grande dono. Allora vi lascio per vedere insieme a Deborah se i mercati saranno un po' felici. Allora sai che stavo ragionando su quello che sta succedendo ai greci in questi giorni, che magari non sono proprio completamente infelici ma un po' nervosi di fare tutte quelle code ai bancomat per andare a prendere 60 euro al giorno, forse lo sono. E quindi insomma, è un paese talmente bello con un mare strepitoso che è capace di loro, sono felici. Loro vedono il bicchiere mezzo pieno sempre, esatto. Infatti Rosita, intanto vediamo i mercati tra poco. Cuore e denari. Che rumore fa la felicità? Che rumore fa la felicità? Quante volte ce lo siamo chiesti, ce lo stiamo chiedendo in questa prima parte di trasmissione. Chissà se questa parola, felicità, si può abbinare al rumore del tintinnare dei soldini, dei denari. Avete mandato tantissimi messaggi già su questo argomento. Quello dei soldi che fanno meno la felicità può sembrare un vecchio gioco di luoghi comuni. Noi vorremmo uscire dalle frasi fatte, confrontarci con voi, con le vostre esperienze di vita. Quando avete percepito che la sicurezza economica e il benessere avrebbero fatto la differenza anche sul piano più personale? Quando invece vi è capitato di pensare il contrario, che nonostante una difficoltà economica la vostra felicità non poteva proprio essere scalfita? Raccontatecelo all'800 24 00 24 per iniziare a prenotare i vostri interventi al telefono. Parleremo di soldi e felicità a tra pochissimo. La felicità è amore, nient'altro. Felice è chi sa amare. Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa senta se stessa e percepisca la propria vita. Felice è dunque chi è capace di amare molto. Ma amare e desiderare non è la stessa cosa. L'amore è desiderio fattosi saggio. L'amore non vuole avere, vuole soltanto amare. Herman Hesse. Anche noi oggi parliamo di felicità, non troveremo la formula perché la ricerca è il viaggio e probabilmente non arriveremo neppure a un significato condiviso. Nessuno può dire che cosa sia davvero la felicità, ma crediamo che provare a misurarsi su una domanda a cui tante menti hanno provato nei secoli a dare una risposta è un esercizio che non può farci che bene, se non altro per evitarci di dire un giorno eravamo felici e non lo sapevamo. 800 24 00 24, noi siamo felici che adesso finalmente il nostro studio si è composto, è al completo. Esatto, come doveva essere. Ci ha raggiunto il maestro Tetsu Genserra in carne e ossa, eccolo qua. Ci ha raggiunto Angelo Vaira, eccoci, saltando tutti gli ostacoli. Rosita è felice di averlo riabbracciato. Noi siamo felici che inizi un programma condotto, inizia sabato e poi ci sarà anche domenica, Chiedimi se sono felice. Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori e dal titolo di questo programma abbiamo preso spunto anche per aiutare i nostri ascoltatori a interrogarsi sulla ricerca della felicità. Uno spottone per il programma, prego. Uno spottone, chiedimi se sono felice. No, noi ci siamo interrogati su diversi temi, no? Durante questo programma, e ancora lo stiamo facendo. Abbiamo parlato, sai che prima parlavamo di cuore, mente, spirito, corpo, e quindi anche i cani hanno bisogno, per stare bene ed essere felici, di mangiare bene, di riposare, di socializzare, dell'empatia. Abbiamo parlato della BARF, telepatia addirittura, no? Quindi abbiamo avuto un ospite molto speciale che ha sorpreso tutti, perché fa delle cose veramente straordinarie. Anche del rapporto della Chiesa, qual è la posizione della Chiesa nei confronti degli animali, della vivisezione, di come devono essere trattati. Perché tutto, la nostra curiosità era, sai che a volte si dice, tutto il creato è stato fatto per l'uomo e perché l'uomo possa disporne e avere dominio su questo, no? Nella religione cattolica spesso si dice questo, in realtà abbiamo avuto un padre, Padre Mariano, studioso di teologia, che ci ha detto no, non è questo, cioè noi siamo custodi del creato, e quindi una persona che abbandona un cane, per esempio, non può definirsi un bravo cristiano. Infatti c'è anche, allora un'informazione di servizio, ma io non sono sveglissima, non riesco a fare, in questo sono molto maschile, non riesco a fare due cose insieme, maestro. Che non era un buon, non era allora. Smentisco categoricamente questa immagine che vuol dare di sé. Anch'io non ci credo. Ma per carità. Ma così voi mi rendete felici. Maestro, lei però ci ha promesso una storia zen, perché una l'ha suggerita già la nostra amica all'ascolto, ha visto che risposta immediata. Sì. Certo, certo. Perché noi ragionando sulle storie zen proviamo a trovare un po' una direzione. Sì, perché le storie zen sono delle metafore, no? Della nostra vita, di come noi affrontiamo la nostra vita. E quindi possiamo anche aiutarci a trovare un po' più di saggezza. E la felicità è già qui, titolo comune, ma mi piace questa storia. E dice, un uomo ricco chiese a Sengai, Sengai tra l'altro un famoso pittore giapponese, zen, di scrivergli qualche cosa per la sua continua prosperità da lasciare, no, ai posteri, e per la sua famiglia, così che si potesse custodirla come tesoro delle generazioni future. Sengai, il pittore, maestro zen, fece su un grande foglio una grande calligrafia, in realtà tre calligrafie, e scrisse: muore il padre, muore il figlio, muore il nipote. Certo, pesantissima, no? Allora l'uomo ricco, naturalmente, con una mentalità poco realizzata e illuminata, andò subito in collera di fronte a questo scritto, no? Ma io ti avevo chiesto di scrivere qualcosa per la felicità della mia famiglia, disse, perché mi fai uno scherzo del genere? Maestro Zen, senza scomporsi, disse, non sto scherzando affatto, spiegò. Prova a pensare, se prima che tu muoia dovesse morire tuo figlio, per te sarebbe un grande dolore. Se tuo nipote morisse prima di tuo figlio e prima di te, sarebbe un doppio grande dolore. Quindi ora sei felice che loro sono in vita e che seguono la naturale vita e morte dell'esistenza. Quindi questa è una, che trovo una bellissima storia zen, perché vuol dire seguire la via naturale, no? Il corso naturale, non vuol dire che devi per forza intervenire a cambiare il corso della corrente, devi navigare sul fiume che è la vita, certo non ti puoi far trasportare così perché sbatteresti contro gli scogli, ma non andare controcorrente. Quindi essere felici. E questa cosa è già questo. Un po' controcorrente, perché se è vero che la felicità proviene da questo senso di appagamento del nostro essere, che non dipende da possedimenti o condizioni esterne, verrebbe da pensare che per essere felici sia necessario rinunciare ai piaceri della giornata e dei sensi, invece in realtà non è così. No, non è così, perché intanto bisogna sempre fare una distinzione tra ciò che è piacere e ciò che è felicità. Sono le due cose, possono stare insieme ma anche non stare insieme. Uno può avere piacere di bere appunto un bicchiere di acqua fresca, dire che sono felice perché bevo un bicchiere di acqua fresca, sì, lo posso dire come intercalare, ma mi sembra un po' esagerato, no? Quindi il piacere è legato al corpo, quindi tutti i piaceri dei sensi, io parlo dal punto di vista buddista e zen naturalmente, non sono assolutamente negati, nessuno nel normale rapporto con l'etica e la morale personale. Quindi il piacere è legato al corpo, la felicità è legato ad uno stato d'animo interiore molto più profondo. Quindi per la felicità bisogna allenare la mente. Bisogna allenare la mente. Ho fatto un haiku. Sì, un haiku, perfetto. Allora andiamo La mente è il cuore, mi perdoni, perché hanno scoperto che gli ormoni della felicità li hanno trovati nel cuore anche. Che guida tutto, infatti. Vedi? Cuore e denari. Cuori e denari. Tutto torna. Andiamo allora, ai nostri ascoltatori. Lascerei da parte al momento i messaggi sui soldi, che magari scandaglieremo un po' meglio nella seconda parte della nostra trasmissione. Non vi dico quante relazioni fanno le persone che ci scrivono tra felicità e salute, lo stare bene mi sembra inevitabile. C'è questa bella osservazione di Carlo che dice: nel momento in cui ti chiedi, chissà se il maestro sarà d'accordo, se sei felice, hai forse cominciato a non esserlo. Sì, certo, in parte è vero, ma d'altronde per realizzare qualcosa devi continuamente fare domande, farti domande. Quindi la domanda contiene la risposta, ma se non fai nessuna domanda non trovi nessuna risposta, neanche quella contenuta nella domanda. Quindi è vero, se mi chiedo sono felice, vuol dire che non lo sono, bene, mi metto in moto per realizzarlo. Angelo, la vicinanza, naturalmente coinvolgo anche Rosita, e la convivenza con un animale è un'esperienza che richiede quel lavoro su noi stessi, sì, che in fondo è molto vicino a quello che dice, proprio, no? È molto zen. Tu hai dedicato a questo aspetto anche nei tuoi studi, perché c'è questa saggezza, direi, naturale, antica nei nostri animali, che può aiutarci a riconnetterci con, esatto, i ritmi e le modalità di ascolto che ci fanno un po' riscoprire parte di noi. Esatto. Con un animale non c'è bisogno di parole, no? Esatto. Ad esempio. Quindi, innanzitutto gli animali ti insegnano il silenzio, il linguaggio del corpo, che è un linguaggio più profondo. Pensa che secondo una ricerca fatta negli Stati Uniti, anche la comunicazione umana, no, è basata per il 93% su comunicazione non verbale, quindi gestuale, e quella paraverbale, cioè quindi il tono di voce. E gli animali ci insegnano a fare questo. Cioè io dico: passate una giornata senza comunicare con le parole, ma anche tra coniugi, no? Cioè riscoprite la bellezza di dirsi ti amo, ti voglio bene, o andiamo da quella parte con i gesti. Però a parte questo, gli animali ti insegnano ad essere presenti. Ci sono dei cani, per esempio, che sono molto carismatici. Cioè li metti per esempio in un parco e gli altri cani si calmano solo per la presenza di questo cane. E poi gli animali ti insegnano anche la bellezza della semplicità delle cose, no? Quindi la brezza del vento d'estate, il fatto di mettere i piedi a bagno, bere un bicchiere d'acqua fresca, dicevamo prima, e ti insegnano anche che la tristezza e che l'aspettativa e a volte la frustrazione fanno parte della vita. Noi abbiamo questa abitudine oggi di dire: ogni volta che c'è qualcosa che non ci piace, e allora vado a bermi la birra, devo per forza stare con gli amici, devo prendere lo psicofarmaco, devo trovare un rimedio immediato perché devo per forza provare sempre piacere. Ma questo non va bene. C'è una differenza, ho imparato nel Dharma, tra dolore e sofferenza. Insomma, oggi vi abbiamo proprio fatto incontrare. Sì, ma infatti io sono felicissimo. Ecco la felicità. E allora chiedemi se sono felice, ricordiamo l'appuntamento per i nostri amici, dedicato agli appassionati e agli amanti degli animali, cani, uccelli, e non perché possono Rosita scoprire se stessi attraverso... Tu che sei un po' la padrona di casa, anche Angela, ma fai gli inviti per bene, su. Allora, mi raccomando assolutamente, tutti i sabati da sabato 4 luglio alle 15 e le domeniche alle 10 del mattino. Chiedimi se sono felice con Angelo Maier. Con Rosita Celentano. Capisci che non posso che essere felice io, ovviamente. No, con un giullare in casa. Ti diverti sempre senza... Posso fare un blitz? Allora, sì, tu, blitz. Domani Nicoletta non c'è, mi lascia da sola in trasmissione. Volevo occuparmi di stabilimenti balneari, cominciare un po' a capire quanto costano, cosa troveranno quest'anno in Ghita. Ti posso telefonare, Angelo, per chiederti 2 o 3 suggerimenti domani mattina, certo, per portare l'animale in spiaggia? Te lo posso rubare? Assolutamente. Io sì, sono andata stanno prendendo un sacco di spiaggia per cani, cane. Il risultato è che ci sono spiagge e spiagge. Bravo, ho capito, dalla mia esperienza ho capito che ci sono spiagge e spiagge. No. Io avevo sbagliato spiaggia, ma il maestro ha fatto. No, ma soprattutto quello che ha detto che Carlo era molto felice di essere. La chiudo con un ultimo messaggio che farà felici tutti quanti. La felicità, scrive Bruno da Bergamo, sarebbe quella di avere Rosita come compagna e come sorelle Nicoletta e Deborah. Hai visto? Ma io non ho capito. Questa andrei subito a sentire il traffico. Dai, posso? Ma per questo sono felice. allora, voi come sorelle, lei come compagno, sono a posto. Sì. Non ho capito, no, no, no, ma adesso glielo spieghiamo bene, i microfoni spenti. Tra poco. Cuore e denari. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Allora, non è una trasmissione musicale, ma questo studio ha bisogno di ricombinarsi, risistemarsi, riadattarsi, perché qua ci sono ospiti che vanno e vengono, altrondi si trovano tutti bene. Che arriva, non vuole più andare via. Anche se il nostro ascoltatore non ci ha scelto come compagno, e male ha fatto. Vabbè, male ha fatto. Non ha detto zie, però. Per cui c'è anche andata bene, se no non l'avrei neanche adottato letto. Come sorelle. Non è un gran buon gustaio, cioè si gusta bene, ma potrebbe fare. Guarda di che più. Rosita è ancora alle nostre spalle. E vabbè, d'altra parte non nascono allora, mica tutti perfetti. Ritorniamo un po' alla nostra felicità. Certamente, sì, ma qui se sentite delle cose in sottofondo, qua le conversazioni vanno avanti, ma ci piace, insomma, questo studio così vivace e vivo stamattina. Certamente uno dei proverbi più noti è quello che recita che i soldi non fanno la felicità, la battuta fin troppo scontata che fanno tutti e figuratevi in quanti l'hanno scritto stamattina è figuriamoci non averli. Questi anni di crisi che hanno messo in ginocchio molte famiglie dal punto di vista economico hanno dato spazio a tante riflessioni su questo argomento, perché molti si sono trovati nella dimensione della difficoltà finanziaria, magari mai conosciuta prima, hanno dovuto affrontare molti sacrifici, riadattarsi completamente dal punto di vista lavorativo, domestico, nell'organizzazione delle proprie abitudini di spese e di consumo. Questi sono aspetti che peraltro, Nicoletta, no, noi affrontiamo e raccontiamo tantissime volte, certo, qui a Cuore e Denari. E quindi il detto è cambiato ed è diventato una bella affermazione solida. I soldi fanno la felicità, almeno così la pensa il nostro ospite di oggi per la parte di denari, anche se con il suo lavoro spinge molto anche sugli aspetti emozionali e di cuore delle persone. Grazie per averci raggiunta, ad Alfio Bardolla. Grazie, buongiorno. Un nome molto noto nel panorama dei financial coach, pur essendo molto giovane viene riconosciuto come il primo financial coach italiano e da anni tiene corsi, scrive libri, fa formazione sulla relazione fra le persone e il denaro. E lui dice, poi magari ci faremo spiegare questa affermazione, ciò che conta al 95% è avere una corretta psicologia del denaro e poi imparare eventualmente tecniche di investimento alla portata di tutti per farlo crescere e quindi renderci sereni dal punto di vista economico. I suoi libri hanno venduto oltre 200.000 copie, uno di quelli di maggior successo è proprio uno dei primi, no Alfio? Sì. I soldi fanno la felicità, per cui ci sembrava l'ospite giusto per la puntata di oggi. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, e ricordare ai nostri ascoltatori, sì, che si è fermato con noi, certo, il maestro Tetsu Genserra, con cui commenteremo naturalmente. Infatti ecco lì che si stringono la mano, sì, si creano. Non abbiamo neanche avuto modo stamattina di fare un po' di relazione sociale tra gli ospiti. Allora, no, Bardolla, ma i soldi fanno davvero la felicità? I suoi corsi sono frequentati da centinaia di migliaia di persone in tutta Italia, per tutto l'anno, lei percorre il nostro paese da una città all'altra continuamente e c'è chi cerca la ricetta miracolosa per diventare felice dal punto di vista economico? È davvero possibile? La risposta è assolutamente sì, perché il denaro dipende soprattutto dalla mente, quindi dalla capacità di capire come viene prodotto il denaro, quali sono le regole. Molto spesso le persone non conoscono le regole del gioco sul denaro e quindi vivono in base a quello che hanno imparato dalla famiglia d'origine. Quindi se il papà gli ha detto guarda studia, laureati, trova un posto fisso, risparmia e poi cerca di andare in pensione con qualche soldino da parte, beh, queste sono cose obsolete. Nel senso che purtroppo l'economia è andata avanti e quello che qualcuno chiama crisi... Purtroppo per fortuna, diciamo. O per fortuna, sì. Purtroppo per le persone che non sono in grado di adattarsi ai cambiamenti veloci. Quindi quello che qualcuno chiama crisi in realtà è un cambiamento di modello sociale, di produzione di reddito, di produzione anche di scolarizzazione, nel senso che una delle cose più importanti oggi è l'utilizzo dei social media, di certo. internet. Basti vedere come si diventa ricchi facilmente, magari inventandosi una piccola applicazione per lo smartphone, che non è un lavoro di grande manifattura, purtroppo per il nostro paese, però anche quello è un Siamo in radio, non vi posso raccontare quella che ha fatto un mio amico, ma che si chiama iFart, quindi per chi conosce l'inglese sa che cosa vuol dire, ma quello che, quello che posso dirvi è che ha guadagnato 14 milioni di dollari in 3 anni netti facendo un'applicazione che in qualche modo ha tutti i tipi di fart. Però quindi, diciamo, tra la crisi economica nera e quel modello là ci sono c'è un abisso. Esatto. E quindi quello che noi diciamo è che la capacità di produrre denaro deriva principalmente da un corretto approccio mentale, non da chissà quale tecnica magica, perché la tecnica viene successivamente. Certo. Se fosse così, noi insegniamo tecniche ai nostri corsi, tutti diventerebbero ricchi, ma per quale motivo qualcuno diventa ricco e qualcuno cambia radicalmente il modo di impostare il suo lavoro dal punto di vista finanziario? Basta vedere il ragazzo che c'era qua con i cani, che ha fatto i nostri corsi, e anche lui ha cambiato totalmente il suo modello di passando da un piccolo imprenditore o uno che ha organizzato un'attività in modo professionale. Quindi quando lei parla di ricchezza, so che parla per la precisione di libertà finanziaria, che è un concetto diverso dal diventare ricchi solamente perché si ha la possibilità di staccare assegni contanti zero. Per noi la ricchezza avere soldi che entrano in automatico, indipendentemente dal fatto che io passo del tempo a produrli. Vi faccio un esempio. Ho scritto un libro, ho venduto 200.000 copie, ho fatto fatica a scrivere il libro, poi il libro in qualche modo continua a vendere, alcuni libri vendono a 6, 7, 8 anni e quindi quei libri creano denaro automatico, cioè denaro dove io non devo più far fatica fisica per produrlo. Però lei ha un talento che era quello della scrittura, della parola, perché questo ci sembra chiaro. Per chi non ha questo talento, la ricetta della produzione facile automatica di denaro passa attraverso altre vie. Sì, allora noi individuiamo 4 tipi di vie. La prima sono gli investimenti immobiliari. Una delle cose che le persone pensano è che investire in immobili ci vogliano soldi, denari. Invece non è assolutamente così. Ci sono un sacco di operazioni immobiliari che possono essere fatte assolutamente senza soldi. L'altra cosa è il trading, l'investimento in borsa, che per qualcuno è il compro, vendo e sto davanti al computer tutto il giorno. Invece per qualcuno è uso la mia testa per fare degli investimenti che meritano. Oppure, ad esempio, quello che sta succedendo con la Grecia. Chiaramente per chi conosce il trading è facilissimo portare a casa soldi in questo momento con questa instabilità della Grecia, perché tutto è molto volatile e quindi ci sono gigantesche opportunità. Senta, le altre due vie ce le da dopo. Io voglio però capire, tutto questo rende davvero felice tutte le persone che frequentano La felicità dipende, perché maestro Serra fra un po' alzerà la mano e comincerà a smontare tutte queste nuove Nicoletta, che però il nome per questo li abbiamo abbinati e continueremo a fare questo percorso dando naturalmente la linea ai nostri ascoltatori. La felicità abbiamo scoperto da una ricerca inglese, dalla Tulip Research, che la felicità dipende dalla capacità delle persone di avere il controllo sulla propria vita. Quindi le persone ricche sono mediamente, o si dichiarano mediamente, più felici della classe media e dei poveri. Perché? Perché hanno questa sensazione di controllo sulla sua vita, sulla loro vita. E seguendo alcuni grandi ricercatori come Cizzimiali, che ha scritto un libro che si chiama The Flow e via dicendo, questa sensazione di controllo sulla propria vita è una dei maggiori responsabili della propria felicità. Benissimo. Quindi, ci si stanno sbracciando solo perché dobbiamo dare la linea al giornale radio, ma ritorniamo subito dopo con i nostri esperti. A tra poco. Grazie. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Dove nasce tutto il cibo del mondo? Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante. E ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in Vista, l'Expo come non l'avete mai visto. e denari. Il denaro va approcciato e studiato così come qualsiasi altra disciplina. I nostri nonni a scuola frequentavano le lezioni di economia domestica. Ora nessuno ti insegna più a gestire i tuoi soldi. Il denaro richiede tre abilità: saperlo creare, saperlo gestire e saperlo proteggere. E insomma, l'avrete capito perché abbiamo già introdotto questo argomento nella prima parte di Cuore e Denari. Oggi parliamo, in questo percorso che abbiamo fatto sul tema della felicità, anche della relazione fra le persone e il denaro, per capire se i soldi fanno davvero la felicità. In molti confermano che questo rapporto è così, è positivo, e molti non ci credono fino in fondo e naturalmente riconducono la loro felicità più profonda ad una questione di salute, relazioni familiari ovviamente serene, no Nicoletta? Noi ne stiamo parlando con due persone che sono, come dire, all'apparenza estremamente lontane, molto diverse, perché abbiamo con noi Alfio Bardolla, financial coach, molto conosciuto in Italia, ci ha portato i suoi libri, e quello che faceva oggi al caso nostro è proprio: i soldi fanno la felicità, non una domanda ma un'affermazione molto chiara, cambia per sempre la tua vita e la tua situazione economica con la libertà finanziaria. Ma è rimasto anche con noi Nicoletta, il maestro Tetsugen Serra. Sarebbe carino e interessante capire che cosa il maestro trova, quali punti in comune trova con il nostro ospite Alfio Bardolla. Ma i punti in comune tutti, se partiamo dal presupposto che non sono tanti i soldi che fanno la felicità, ma come tu vivi questa ricchezza. E quindi, se si parte da questo presupposto, vuol dire che se hai denaro puoi essere felice, ma puoi essere anche infelice se non hai il rapporto giusto con la vita. Come se tu sei povero puoi essere infelice, ma puoi anche essere felice, dipende sempre dalla tua mente, da come hai il rapporto con la vita. Non è il denaro che fa la felicità, è che se ce l'hai sicuramente e lo sai utilizzare correttamente, allora sì, ti fa la felicità, certo. Ma anche se sei povero, se sai utilizzare la vita bene. Adesso cominceremo a sentire le testimonianze, gli interventi dei nostri ascoltatori sono pronti. Diego da Cuneo, Nicola da Bari, Edi da Milano che aspetta da un po' e Francesco da Roma. Volevo far completare però il discorso ad Alfio Bardolla, che ho brutalmente interrotto prima del nostro giornale radio, sulle tecniche che insegnate ai partecipanti ai vostri corsi per poter rendersi liberi dal punto di vista finanziario, soddisfatti dal punto di vista economico, perché c'è anche chi non ne ha mai abbastanza, per cui voi avete proprio degli strumenti di tecnica che trasmettete appunto ai... Certo, allora dicevo, prima c'è gli investimenti immobiliari con soldi, senza soldi o con pochi soldi, il trading, quindi spieghiamo come, senza dover stare davanti al computer, prendersi cura dei propri denari in modo più che altro automatico. Poi ci sono le royalties, tutto quello che ha a che fare col mondo di royalties, certo. Quindi da royalties sul web, royalties da network, royalties da libri, royalties di vario tipo. E poi abbiamo la creazione di aziende automatiche. Mm-hmm. Quello che abbiamo fatto, abbiamo creato anche una società che si chiama Smart Business Lab, che segue gli investitori, l'imprenditore per un anno, per fare in modo di poter fare un passo indietro nella sua azienda e fare in modo che la sua azienda funzioni in automatico senza di lui. Quindi, proprio perché? Perché quello in cui crediamo è che il denaro debba dare la libertà, e molto spesso invece le persone diventano imprenditori e poi si trovano incasinati 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, nel cercare di far funzionare la propria azienda. Quindi insomma anche strumenti di organizzazione per poter ottimizzare anche la quotidianità. Chi è mediamente l'utente tipo di un corso? Vabbè, allora, voi ne avete tanti, però chi è che viene a cercarvi? Chi è proprio l'insoddisfatto cronico del denaro che vuole cambiare allora, radicalmente? Intanto non sono insoddisfatti cronici, e di solito purtroppo non sono neanche persone povere. Sono persone che hanno tra i 35 e i 55 anni, un reddito medio-alto o una capacità di produrre reddito medio-alto, e tipicamente laureati o di cultura medio-alta. Questo perché? Perché probabilmente sono persone che pensano di poter imparare delle cose, metterle a frutto e poi creare la propria vita. E se ne vanno a volte via anche un po' con le pive nel sacco? Non imparano niente? Ah, il problema è che noi diamo gli strumenti uguali a tutti. Poi il problema è l'applicazione dello strumento. Quindi ci sono persone che vengono da noi e immediatamente cambiano la loro situazione finanziaria, diventano felici, liberi e ricchi, e gente che invece viene lì e sta con noi un anno e poi non applica niente, fa il vacanziero delle dei corsi, come lo chiamo. La vita ideale per tutti, ma non è detto poi che siano anche felici. Mi chiedevo, Alfio insegna delle tecniche, il maestro Tetsugen Serra tra poco sarà in libreria con un nuovo libro, Zen 3.0, la via della meditazione. Anche la meditazione è una tecnica? Ma di partenza sì, possiamo pure dire che è una tecnica, sicuramente una tecnica per allenare la mente, per conoscere noi stessi. Giustamente, come diceva prima, loro nei corsi danno gli strumenti a tutti, poi dipende come uno li utilizza. Tutti abbiamo la stessa mente, poi dipende come la vogliamo utilizzare, dalle circostanze della vita che ci portano a utilizzarla in un modo o in un altro. La meditazione è un aiuto per utilizzare al meglio la nostra vita. Fate corsi di meditazione anche nei vostri corsi? No, però abbiamo un corso si chiama la meditazione e la capacità di produrre denaro sono strettamente correlate. Vedi, li abbiamo intrecciati. Quasi. Già partito un nuovo reality a settembre, già ti vedo, già ti vedo. Guarda, ti vedo già. No, però abbiamo un corso che si chiama Total Wealth, cioè che è benessere a 360 gradi. Ci hanno un po' copiato, dai. Dove portiamo delle persone che sono esperti. L'anno scorso abbiamo portato un esperto di NSA, una persona che cura la corona vertebrale, degli esperti di meditazione, di yoga, via dicendo. Quindi parliamo di soldi, poi, e cerchiamo di far vivere la vita equilibrata a 360 gradi. L'anno scorso è stata fatta a Las Vegas, quindi oltre al corso c'erano i giri in elicottero, cose da milionari, e poi invece c'erano cose invece per ribilanciare le persone, riportarle a un equilibrio migliore con se stesso. Quest'anno sarà le Bahamas, quindi anche uno. Anche lì, cioè, a pero non li fa, qualcuno deve pur farli. A pero, cioè, no, qualcuno deve. Ah, no, qua avete tutto il mondo, non capisco. Non qui in fiera perché siete dovuti andare alle Bahamas, cioè è incomprensibile. Perché per essere felici devono andare lontano. No, c'è una migliore energia alle Bahamas. Immagino. Quindi, senta, adesso sentiamo Edi da Milano, perché poverina aspetta da un po'. Edi, buongiorno. Buongiorno. Le abbiamo fatto ascoltare tutta la trasmissione per telefono. Abbia pazienza. Ci sente? No, nel frattempo si è stancata. Sì, Edi. Pronto? Edi, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho chiamato per dare una testimonianza. Sì? Perché di tutto quello che avete detto io sono assolutamente d'accordo, ma penso che specialmente la felicità è proprio dentro di noi. Non c'entra niente con quello che abbiamo. Diciamo, io sono contenta che sono riuscita a parlare con voi, ma questa contentezza ho proprio come un dettaglio, perché la felicità per me è la pienezza e l'essere tranquilla con me stessa, dell'avermi essermi accettata, aver accettato anche tutti i miei sbagli, i miei, però soltanto come cose umane, perché senza farmi del male, senza fare del male, che questo è proprio la pace che ho trovato con me stessa. Dopodiché i pochi o tanti soldi sono un dettaglio, avere tanta gente con me sono un dettaglio, viaggiare è un dettaglio, ma diciamo che la cosa principale è essere in pace con me stessa. Come dico io, leggendo il libro del maestro, quello 2.0, Mindful Zen, la nostra vita è fatta tutta di puntini, dobbiamo vivere ogni puntino, vero? Che poi insieme, un puntino dopo puntino, allunga una vita. Eppure, avendo anche qui Alfio Bardolla, stavo pensando che tutti i dettagli che indicava Edi, per molti non lo sono affatto, perché il viaggiare è un dettaglio, avere una vita gratificante dal punto di vista economico non è affatto un dettaglio, no? Il denaro è un amplificatore, io posso essere felice in un barettino... o sotto in uno scantinato, però felice al Burj Al Arab a Dubai, portando i miei figli, mia moglie, o sentendomi l'eroe della mia famiglia, è totalmente diverso. Io in questo momento ho una delle più belle case che ci sono a Milano, una villa fantastica in centro a Milano con un parco, e ogni volta che entro ho una sensazione diversa da quando vivevo nella mansardina in cima, che era grande la metà di questa stanza dove siamo adesso. Perché sensazione diversa è di dire sono arrivato? Perché la sensazione, una serie di persone, compreso me, che è quella di vivere, vuole vivere la vita dell'eroe, vuole essere l'eroe della propria famiglia, della propria moglie, delle persone che stanno intorno. Quindi non sono solo persone che cercano di far denaro per loro stessi, ma cercano di essere un esempio, ad esempio per i miei figli, quindi per me è importante ad esempio parlare di soldi anche se sono piccoli, però gli va dato il valore del fatto che una cosa costa dei soldi, che i soldi devono essere prodotti in un modo intelligente e che ci sono famiglie che hanno difficoltà e quindi bisogna aiutare le persone che sono più in difficoltà cercandogli di aiutarli a pescare più che dargli un pesce. Quindi tutte queste cose, lo spiegare ad esempio la differenza tra la povertà, la ricchezza o l'essere nati in una parte giusta del mondo, perché quello non è tanto merito nostro, sono cose fondamentali. Quindi il denaro è un amplificatore, amplifica chi sei. Se sei uno che sgomma su una Panda non gliene frega niente a nessuno, se sgommi su una Ferrari. Magari uno sgomma sulla Panda ed è contento della sua pandina. No, maestro. Sentiamo la lettura. Penso proprio di sì. Giustamente uno se i miti, no? E gli archetipi sono questi per tutti noi, lo sappiamo benissimo. Se l'archetipo, il mito è quello dell'eroe e uno vuole incarnare quello dell'eroe, bene che ricerchi quello. Io voglio incarnare quello del santo e allora mi sono fatto monaco. Beh, anche in quanto ambizioni, anche qui non si, ecco, scherza. Non si scherza. L'ambizione fa parte dell'essere umano, cioè è l'impermanenza continua, no? L'evoluzione continua della specie è nelle cellule, poi possiamo chiamarla ambizione se diventa psicologica o no. Però non penso che uno sia più felice. E se è in una mansarda a Spaccanapoli, come siamo stati nell'ultimo Urban Zen, o invece a Dubai. Ci sarà chi è più felice così e chi non lo è. Se uno riesce a raggiungere veramente il centro di se stesso e di che cosa è l'essere umano, è felice ovunque. Allora, sentiamo come la pensano i nostri ascoltatori, visto che stiamo continuando un po' a modificare il nostro messaggio, ad arricchirlo anzi. Nicola da Bari, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Dunque, mi verrebbe da rispondere all'autore della ricchezza, che il catalano diceva è meglio sposare una donna ricca, bella o una povera. Mi sembra quasi un'ovvietà, ma è anche il denaro una fabbrica di disperati. Assolutamente, viviamo in un mondo di disperati se fosse così. Certo, non demonizzo la ricchezza, ma sono d'accordo con l'ascoltatrice di prima. Niente che fuori di noi ci può dare felicità, tantomeno il denaro, ma neanche la fantomatica bellezza, l'amore che tutti cercano pensando di essere più felici. In realtà solo una persona felice, ovvero serena, in pace con se stessa, può amare, può darsi. Nicola, grazie per la sua testimonianza, la metterei insieme a quella di Diego dalla provincia di Cuneo per poi commentarle tutte insieme. Diego, benvenuto. Ciao, buongiorno. Buongiorno Diego. Vorrei portare un'esperienza da parte di un architetto di 36 anni che sono io. Con un gruppo di colleghi abbiamo messo su in pista un collettivo di architetti e designer e ci siamo messi in gioco in ambito UNESCO, quindi sul 50° sito iscritto alla lista del patrimonio dell'umanità, che sarebbe Langhe Oero e Monferrato. Siamo partiti più che altro su un discorso di valorizzare il nostro territorio, perché valorizzando il nostro territorio abbiamo ragionato sul discorso che riusciamo a valorizzare anche il nostro lavoro e quindi economicamente parlando a migliorarlo. Sì. Mi rendo conto però che nonostante ciò il mio mondo, il mondo dell'architetto, del designer, a volte ha un certo limite che è il limite dei veramente del denaro. Nonostante ciò sono convinto anche sul discorso che è la determinazione che fa la differenza, cioè il nostro stato vitale più alto è e più abbiamo l'obiettivo chiaro lo raggiungeremo, ecco. In genere uno si augura il prima possibile e via. E certo, ritorniamo alla parola chiave che è mente, no? Allenamento, esatto. È una posizione mentale, un allenamento mentale, in fondo anche la determinazione, che no? È la testa che ci rende ricchi o poveri, felici o infelici, quindi è tutta una questione di testa. Che certo. Siano le tecniche, che sia la meditazione, che sia la consapevolezza, parole che sentiamo e che forse sono un po' abusate, ma che aiutano, vero, oggi, che ci aiutano a ricentrarci con noi stessi, in fondo a cercare quello che vogliamo, no? Il maestro Tetsugen diceva, c'è chi vuole essere, no, andare a Dubai, chi può essere felice nella l'importante è, lui ha voluto fare il monaco e invece un altro vuole fare, certo. Noi vorremmo essere le più amate di di Radio 24 ma noi lo siamo già, lo sentite, che con determinazione abbiamo cercato questo giornino risultato, giornino dopo giornino, esatto, scrivetecelo però, che ci fate piacere. La felicità dentro di sé, maestro Serra, però per chi si concentra molto su questo messaggio e riconosce che questo certamente è un passaggio molto importante per definirsi sereni, ma come si fa ad andare a cercare quella felicità che è dentro di noi per chi si avventura su questo percorso? Bisogna continuamente domandarsi qual è il rapporto tra noi e quello che pensiamo, tra noi e quello che facciamo. È una continua domanda, no? Lo dicevo prima. La risposta poi viene naturale. Ma lei adesso che cosa sta facendo, ad esempio? Io adesso mi sto domandando se le persone che stanno ascoltando questa trasmissione comprendono che il denaro, qualsiasi cosa, non è né felice né infelice. Dipende sempre da noi. Noi dobbiamo domandarci che rapporto abbiamo con questo, se c'è, se non c'è, come viviamo, come non viviamo. Questa continua domanda porta all'introspezione, quindi dobbiamo farlo come quando ci svegliamo al mattino e diciamo: questa giornata come me la sento? Bene, mi alzo. Come non me la sento? È chiaro che cadiamo sempre nei luoghi comuni, no? La ricchezza non dà la felicità, non certo. È vero, la dà o non la dà, dipende solo da noi, no? Se sto a guardare un bel tramonto, sono felice, non è vero, ci sono tantissime persone che sono infelici e vivono nei posti più belli del mondo e che non colgono, non è che non lo colgono, è che la loro mentalità, il loro modo di stare, il loro modo di essere in quel momento è un altro. Alfio Bardolla, fra le vostre iniziative future, perché siete una fucina di idee senza incontenibile, direi, farete anche, me lo raccontava prima a microfoni spenti, mi piacerebbe che gli ascoltatori appunto conoscessero anche questa novità, dei corsi per cercare di far capire alle persone perché ci si trova in determinate situazioni finanziarie, sì. Quindi nessuna tecnica di vendita di alcunché, ma semplicemente una presa di coscienza sulle motivazioni per cui ad un certo punto nella vita uno si interroga sulla propria condizione economica e magari da lì parte. Sì, l'abbiamo chiamato the wake up call, cioè la chiamata. Wake up, svegliarsi. Sì, il wake up è darsi una svegliata. Sì. In piemontese da Tenandi. E quindi la faranno per... La chiamata e sono due giorni sulla psicologia del denaro. Cioè, da dove arriva la nostra capacità di produrre quel denaro? Come lo produciamo? Nell'80% dei casi lo produciamo come lo producevano la nostra famiglia d'origine o le persone a noi importanti. Un 20% invece in totale reazione. Come ad esempio nel mio caso, io sono nato a Chiavenna, in cima a una montagna, da una famiglia modesta e con davanti delle persone ricche che tutti i giorni mi facevano vedere che qual era la differenza tra la mia situazione e la loro. Quindi un po' quindi, Dante la chiamerebbe la legge del contrappasso. Sì, e quindi che cosa è successo? Che chiaramente questa cosa mi ha dato la voglia di anch'io voler arrivare a quel livello o a voler produrre quel tipo di ricchezza. E quindi che cosa succede? È un'analisi proprio su dove arriviamo, perché vogliamo produrre quel denaro, quanto denaro vogliamo produrre, come lo produciamo oggi? E lo produciamo in modo automatico oppure stiamo facendo un enorme sforzo per produrlo? Perché il denaro, come qualunque cosa, una volta che uno è ricco, quindi è centrato, automaticamente non ha bisogno di dover spingere per poterlo produrre, perché dovrebbe arrivare in modo abbastanza automatico. È come dire: io sono felice, io sono felice, io sono felice, ma poi se uno veramente dentro di lui non lo è. Quindi quello che cerchiamo di fare è di capire da dove arriva il denaro, quali sono i sabotaggi che stiamo avendo magari. Noi sappiamo che per magari produrre soldi devo sì, oppure il denaro mi ha causato dolore nella mia vita perché è sempre stata una cosa difficile, mio papà ha avuto dei fallimenti e quindi mi hanno buttato fuori di casa, cioè, quindi cercare di capire quali sono i traumi, se ci sono. E ci sono poi delle cose tipo costellazioni familiari, come il denaro ha impattato su tutta la mia famiglia nel passato, sui miei avi, e cercare di di ricapire e di mettere una situazione neutra, quantomeno dire ok, se devo prendere una decisione, un pochino, sì, se devo prendere una decisione finanziaria, la prendo non in base a quello che è successo nel passato, quindi la paura, ma in base a quello, certo, che voglio fare nel mio futuro. Benissimo, grazie ad Alfio Bardolla, che rinviteremo senz'altro magari per farci raccontare anche Il denaro spiegato ai miei figli, che è un libro molto bello. Altro messaggio? Altro messaggio, ricordate che il 10 luglio nuovamente in libreria Zen 3.0 La via della meditazione del maestro Tetsugen Serra, che inviteremo a parlarne direttamente qui. Grazie a tutti. Allora, grazie per te il percorso ad Expo finisce qua, ma io sarò qua domani da sola. Per cui grazie a tutti, buona giornata.